Abbiamo in collegamento una compagna del centro Donna Lisa che sabato, domenica mattina hanno fatto un flash mob al centro di Roma. Ciao! Ciao, sì, a Largo Corrado Ricci, Questa modalità esattamente. giovanile anche noi ora abbiamo adottato, mi sembra simpatica. Sì, non male. Ha reso, insomma, è stato piacevole, è stato, pur nella drammaticità del tema, comunque una Sì. bella giornata, una bella mattinata in cui abbiamo presentato, insomma, il problema del femminicidio e appunto delle donne vittime di violenza che solamente insomma, dall'inizio del 2012 sono già 115. E abbiamo visto che insomma, le persone si fermavano, chiedevano, anche molti stranieri, molti turisti che erano semplicemente a farsi una passeggiata sui fori, si fermavano incuriositi da questo gruppo di donne con il megafono che strillavano cose a loro incomprensibili in realtà, però era molto d'impatto il cartellone, c'era un grande cartellone che mimava insomma, dei manifesti funebri, funerari, insomma, con i nomi di tutte le donne che sono state ammazzate. Ah, E quindi poi c'era d'impatto, molto sì, molto d'impatto, dice. d'impatto e un'altra cosa altrettanto d'impatto è stato mettere delle scarpe, circa insomma 100 paia di scarpe lungo la linea di mezzeria, quindi lungo la linea divisoria della carreggiata, e ha reso molto l'idea appunto dei passi che queste donne avrebbero potuto fare se non fossero state spezzate, se le loro vite non fossero state spezzate dalla violenza maschile. E quindi tutto sommato diciamo che la giornata è stata, la mattinata insomma per noi è stata importante ed è stato soprattutto piacevole incontrare persone che si fermavano incuriosite da quello che stava succedendo, perché spesso insomma lo saprai Sì. benissimo, il problema è un po' taciuto dai media, no? Dai mezzi di comunicazione mainstream, la cosa passa un po' sotto silenzio, se la si affronta sempre con dei pregiudizi o comunque con un taglio, come dire, patriarcale, insomma una vera cultura di genere in questo paese è ancora di là da venire e quindi bisogna spezzare parecchi pregiudizi quando si parla di una donna uccisa, bisogna evitare di dire come era vestita, dove stava, che ora era, perché sono tutte cose che assolutamente non ci interessano e che vorremmo che una volta per tutte anche i mass media smettessero di dire o che trovassero delle solite attenuanti agli uomini, appunto presunti raptus di follia, di gelosia, di malattia, insomma tutte queste stupidaggini che purtroppo riempiono le pagine dei giornali quando succedono tragedie come queste. Sì, infatti i giornali riempiono di cronaca, in realtà di banale cronaca che poi usano per ridarci una cultura che è quella che ci vuole dentro le case, che è quella che ci vuole colpevoli, per cui non ci Esattamente, aiutano la per niente. colpevolizzazione delle donne, no? O anche, voglio dire, a volte proprio come dire, la morbosità, no? Tutti si Sì. fermano su particolari morbosi, perdendo un po' di vista il vero problema, che appunto è un problema di tipo culturale, politico, ideologico, non so, che è sempre appunto la propaganda che il patriarcato fa di se stesso per il mantenimento di questo status quo che appunto vede la donna al sicuro solo se sta nelle quattro mura domestiche, mentre sappiamo benissimo che la donna è proprio tra le quattro mura domestiche che non sta al sicuro perché la stragrande maggioranza dei femminicidi avvengono in casa, quindi nell'ambiente che teoricamente dovrebbe essere quello protetto dalla sacralità presunta di questo dannato vincolo matrimoniale e familiare che in realtà non difende nulla e non salvaguarda nulla. Le istituzioni dal canto loro non difendono, non salvaguardano nulla, anzi tendenzialmente sono complici, almeno con il loro silenzio, di questo stato di cose, non fanno delle politiche attive per prevenire la violenza o per contrastarla o per aiutare le donne che ne sono vittime. Poi sai bene che nei giorni di celebrazione le istituzioni si riempiono molto la bocca con queste cose, per cui corteo illuminato, grandi dichiarazioni, cordoglio per le vittime, condanne per i colpevoli, poi in realtà di tutte queste parole a livello di politiche attive, fattive, ma rimane ben poco, i posti letto nelle case d'accoglienza sono pochissimi, i consultori Stanno funzionano smantellando poco e uno male, li stanno smantellando uno per uno. Quindi insomma i problemi sono sempre gli stessi e purtroppo anni e anni di femminicidi sembrano non voler minimamente far cambiare le cose, neanche appunto l'aver visto che ci sono già sulla nostra strada 115 cadaveri di donne. No, evidentemente no. Forse quest'idea di mettere le scarpe per cui dare anche una sensazione che quelle donne sono esistite, erano Vabbè reali, non sì, sono solo un erano reali. numero. Per cui fa, certo. È di grande impatto, immagino, vedere tutta questa sfilza. Voleva essere una cosa di impatto visivo, no? Le scarpe erano scarpe vere, colorate, usate, di donne vere, reali, quindi era proprio una, per dare un'ulteriore, come dire, veridicità alla questione, perché non sono solamente nomi sulle cronache dei giornali, sono esseri umani le cui vite sono state spezzate dalla violenza maschile, insomma, diciamoci le cose come stanno. E appunto non ci interessa quanti anni avessero, con chi avessero avuto relazioni, con quanti uomini avessero avuto relazioni, se li avessero traditi, se non li avessero traditi, come fossero vestite, dove andassero a passare le loro serate, sono tutte cose che in realtà appunto la stampa ci affonda, no? Insomma, sì, ci sguazza. Una propaganda strumentale, esattamente. Sì, no, mi sembra che insomma non è stato questo un inizio. Volevamo dire, speriamo che ci riuscite, insomma alcune di noi si sono anche premurate di parlare con gli stranieri, con i turisti che si avvicinavano tentando di spiegare loro insomma la situazione, alcuni erano un po' spiazzati perché evidentemente sai 110-115 vittime in 11 mesi è una media molto alta. Se fosse stato il contrario ci sarebbe stata una guerra civile, ma qua nessuno. Ma figurati, se fossero stati 115 maschi, 115 banchieri, 115 gioiellieri, 115 qualsiasi altra cosa. Sì, 115 qualsiasi altra cosa. Purtroppo, no, lo dico con rammarico, sì, non lo dico. Sì, è drammatico, cioè, lo è certamente, sì. Invece voi ormai sono tanti anni che esistete come Centro Donna Lisa. Che... Sono molti anni che esistiamo e che operiamo appunto come sportello di accoglienza, sì. Quindi è anche ora un po' di festeggiare tutto il lavoro che fate. È ora di festeggiare, sì, anzi, ne approfitto, aiuto, sento un po' di la linea disturbata. Comunque, dicevo che ne approfitto perché naturalmente spammo spudoratamente la nostra compleanna, che sarà sabato 1° dicembre, ci sarà una cena, ci sarà la proiezione di un video che abbiamo realizzato, girato appositamente per il 25 novembre e ci sarà l'autrice di un romanzo che fa appunto un reading di brani da questo romanzo che si rifà alla sua esperienza di vita, e questa donna è stata aiutata dal Centro Donna Lisa e poi dalla sua esperienza è riuscita a uscire dalla violenza e ne ha tratto un libro nel quale parla in parte insomma anche di noi, ma soprattutto di lei e di come è riuscita a uscire dalla violenza, e quindi sarà presente, ci leggerà alcuni brani del libro, e poi ci saranno cena con sottoscrizione, ricchi premi e cotillon, balli, danze, musica, insomma. E quindi non potremo assolutamente mancare, noi sicuramente ci saremo e vediamo tutte quante insomma anche tutti quanti. Questa serata il centro è aperto anche ai compagni, mariti, fratelli, padri, fidanzati, amici. E mi sembra giusto, per una volta va benissimo. Per una volta si può fare. Sì, si può fare. Quindi insomma noi intanto vi facciamo, no, non ve li facciamo, ve li faremo sabato. E quindi ci vediamo sicuramente, invitiamo tutte e tutti a questa giornata. Ti ringrazio tantissimo per averci raccontato. Grazie a te. E anche e soprattutto per tutto quello che fate. Noi insomma ci risentiamo a breve e tanti auguri. Grazie mille. Ciao, grazie. Buona serata, grazie a te. Ciao.